in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, stavo per dire dei quotidiani internazionali, ma siccome ho qui davanti agli occhi un settimanale, diciamo proprio rassegna stampa internazionale. Per una volta infatti inizierei da questa edizione di Time, l'edizione in edicola questa settimana. La copertina è un'illustrazione, ma è chiaramente riconoscibile, il presidente cinese Xi Jinping ha una mascherina di quelle che ormai siamo abituati a vedere ovunque, forse un po' più grande di quelle che usano la maggior parte delle persone, comunque la mascherina bianca che si lega dietro le orecchie e copre tutte le vie respiratorie, cioè il naso e la bocca. Il titolo è China's Test, che potremmo tradurre con la Cina alla prova o la prova per la Cina. Questo è un po' il parere di tanti commentatori, cioè che su questa vicenda dell'epidemia di coronavirus si giocano le capacità della Cina di avere un atteggiamento diverso verso i suoi problemi rispetto al confronto naturalmente è con l'epidemia della SARS del 2003-2004, sulla quale i dati vennero resi noti con enorme ritardo e mai si seppe se erano veramente reali. Qui fin dall'inizio, tranne proprio i primi giorni, ma per forse un atteggiamento dei funzionari locali di Wuhan, che sono stati più realisti del re, hanno pensato di far bene a coprire l'epidemia. Il presidente Xi ha avuto da subito un atteggiamento molto diverso. Secondo Time, il tema sarà anche se questa epidemia riuscirà a convincere la Cina, ma Xi di questo ha già parlato, per esempio a chiudere quei famosi mercati all'aperto di animali dai quali probabilmente ha avuto origine questo coronavirus e poi tra l'altro trasmesso attraverso un pipistrello. Insomma, è tutto materiale per i virologi, però che probabilmente questi mercati abbiano un ruolo nella produzione di questi virus che, guarda caso, vengono sempre dalla Cina, è un fatto su cui molti concordano. E poi naturalmente c'è il tema, se ne è parlato tanto, ne parla ogni giorno anche il Sole 24 Ore, degli effetti economici, e quindi il Time parla di una economic threat, di una minaccia economica, naturalmente non solo per la Cina ma per tutto il mondo, perché la Cina insieme agli Stati Uniti è il paese economicamente più importante, quindi più influente in questa parte, insomma, del nuovo millennio. Torniamo però, diciamo, facciamo un salto tradizionale su Vox Europe, perché ha un interessante approfondimento sulla Commissione europea e sul fatto che, lo sappiamo, in questo momento pare che l'obiettivo più importante della Commissione europea sia questo Green Deal, questa svolta verde che il presidente della Commissione Ursula von der Leyen vuole imporre, vuole dare all'Unione europea. Tra l'altro è la stessa svolta verde che sta dando anche la Cina, per tornare insomma ai grandi temi economici e geopolitici, a tutta l'economia. E però si chiede Vox Europe, ma questo ambizioso programma sul clima avrà forse più successo dell'altro ambiziosissimo obiettivo che si era data la Commissione dopo la crisi del 2008, la crisi economico-finanziaria, cioè di costruire un'Europa più sociale, più equa? Perché se andiamo a vedere appunto gli indicatori sulle disuguaglianze in Europa, purtroppo bisogna dire che quel grande obiettivo di eliminare alcune disuguaglianze, ma anche alcune mine finanziarie che esistono tuttora sotto appunto la superficie del funzionamento dei nostri mercati finanziari, dagli hedge fund, dagli NPL, a tutti questi strumenti di cui le persone normali, tra cui naturalmente io, normali nel senso che non ci occupiamo di finanza proprio in modo professionale, appunto sappiamo poco, ma poi possono essere, sono come dico, delle mine, perché primo perché il funzionamento non è chiaro a tutti e poi perché sono manipolabili a maggior ragione nell'epoca del fintech, cioè della finanza anche controllata dagli algoritmi. A proposito invece di Germania, ne abbiamo parlato perché in questa settimana si è consumato questo episodio politico in un Land, la Turingia. È stato eletto un governatore di un partito liberale, ma con i voti dell'estrema destra di l'AfD. È rimasto governatore solo per un giorno, si è dimesso perché appunto la cosa ha destato delle reazioni a livello nazionale. In Germania è stato ospite anche Sebastian Kurz, che è leader di un partito non di estrema destra, ma sicuramente ultraconservatore, possiamo dire così, e sapete che ha fatto di recente un secondo governo, è un cancelliere molto giovane, ha poco più di 30 anni, il suo governo attualmente viene così un po' anche semplificando chiamato nero-verde perché governa con i verdi e secondo lui, lo ha dichiarato in un'intervista alla Faz, forse anche la Germania è pronta prossimamente per una coalizione di questo tipo, quindi una grossa coalizione che veda i partiti di centrodestra, speriamo non la AfD, aggiungo io, che invece è un partito di ultradestra con risvolti xenofobi, razzisti e con al suo interno anche alcuni esponenti che in passato hanno chiaramente detto di non credere alla narrazione, chiamiamola così, sull'olocausto. Quindi potrebbe essere però un governo tra i verdi e appunto la CDU o altri partiti di destra. Le Monde, a proposito di destra, ha invece dedicato un lungo ritratto a Giorgia Meloni, l'ha chiamata l'altra faccia della destra conservatrice italiana. Naturalmente una è quella di Matteo Salvini, di cui Le Monde ha parlato molto, l'ha messo in copertina per due giorni di seguito dopo il voto in Emilia-Romagna di due settimane fa, e in questo articolo si cerca di presentare, se vogliamo, non è detto che tutti i francesi la conoscano, Giorgia Meloni ai lettori di Le Monde, quindi spiega che è nata a Roma nel 1977 in un quartiere popolare, ha fatto tutto il suo percorso, ha portato il suo partito Fratelli d'Italia a percentuali molto alte ed è reduce anche, lo ricorda Le Monde, da questo viaggio a Washington dove ha partecipato alla National Conservatives Conference, che è appunto una sorta di think tank, quindi un pensatoio letteralmente, ma vuol dire un posto appunto dove ci si scambia delle idee di ultraconservatori. Le Figaro invece dà notizie non buone per Emmanuel Macron, il presidente francese tuttora alle prese, oltre che con le sue ambizioni di leader, diciamo, internazionale e anche di tessitore di magari accordi di pace anche con tutte quelle zone dove ci sono ancora molti conflitti, a partire dalla Libia naturalmente, però in patria deve soprattutto risolvere, e non è chiaro se ci riuscirà, la questione della riforma delle pensioni. E quindi, secondo un sondaggio pubblicato dalle Figaro questa settimana, avrebbe perso 8 punti di consenso e ora ha soltanto il 24% di opinioni favorevoli tra i francesi sul suo operato e potrebbe presto raggiungere, scrive Le Figaro, il primato negativo del suo predecessore François Hollande. Invece abbiamo detto, credo già settimana scorsa o comunque ne abbiamo parlato forse questa settimana in Effetto Mondo, dei tagli che stanno arrivando per la BBC, che tra l'altro è questo, il BBC sta per British Broadcasting Company, è nata naturalmente quando ancora la televisione non c'era, quindi trasmetteva soprattutto trasmissioni programmi radiofonici, e pensate che nel 2022 compirà 100 anni. Però il modello della BBC, come di tutte le media company naturalmente, alla sfida di internet, della rivoluzione digitale, dello streaming, di aziende, di società come Netflix o tante altre, e la stessa Sky anche nel Regno Unito, e quindi deve cambiare, ma in questo momento può ancora contare sul canone, che è una sorta, insomma, l'equivalente del canone che paghiamo noi alla RAI, e di finanziamenti pubblici. Non solo, chi non paga il canone nel Regno Unito, a differenza di quanto succede in Italia, può avere una sanzione penale, e quindi il governo Johnson non è mai stato tenero con la BBC, perché considera la BBC a sua volta non essere stata tenera con lui durante le campagne elettorali, e quindi ha detto innanzitutto toglieremo queste sanzioni penali e poi comunque rivediamo anche tutto il resto a partire dal canone e da altri finanziamenti. Volevo anche segnalarvi un articolo che ho trovato bellissimo, interessantissimo, lo pubblica, lo ha tradotto Internazionale di questa settimana, lo trovate in edicola, e è tradotto da The Conversation e si intitola, che è una pubblicazione del Regno Unito, l'ha scritto Samantha Patrick, e si intitola 100 albatri contro la pesca di frodo. I rilevatori usati per studiare i grandi uccelli marini, questi grandi uccelli marini, permettono anche di individuare le barche che spengono i radar per non essere viste durante le battute di pesca illegale. E vi dico solo due parole sugli albatri perché sono creature straordinarie, si legge in questo articolo. Nel corso della loro vita possono volare per 8,5 milioni di chilometri, l'equivalente di 10 viaggi sulla Luna andata e ritorno. Hanno un'apertura alare di 3 metri e mezzo e sono lunghi come un'utilitaria. Quindi questi uccelli straordinari con il loro sistema di comunicazione, a noi sembra che urlino, ma noi esseri umani vediamo sempre tutto dal nostro punto di vista, invece loro con questi, un po' come fanno i pipistrelli, riescono a usare questa loro voce anche come un radar, come il più sofisticato dei radar. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.